Siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. Buongiorno, buongiorno, grande esordio oggi, grande giornata piena di avvenimenti, di fatti, ne parleremo fra poco. Faremo un viaggio in questa Italia attraversata da luci e ombre, le speranze di Cernobbio, la batosta della nazionale, i timori di una nuova guerra nucleare, la politica che è lì in ebollizione. Allora buongiorno soprattutto al nostro primo ospite che ci accompagna oggi, Francesco Merlo, editorialista di Repubblica. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora Francesco, insieme facciamo questo viaggio, questa grande immersione. Gli ascoltatori sono lì, possono mandarci messaggi come sanno al 349-238-6666, ma noi vogliamo iniziare subito a farti sentire il blob della rinascita. Giulio Tremonti ha scritto un libro sul rinascimento insieme con Sgarbi e sembra che da Cernobbio arrivi una luce di speranza. Io sono tra gli ottimisti, penso che la ripresa in Italia sia ciclica ma anche in modo crescente e strutturale. In questo contesto dunque favorevole, l'Italia arriva avendo finalmente lasciato alle spalle la crisi più acuta che abbiamo avuto dal dopoguerra. La crisi è dietro di noi, ma dobbiamo stare attenti perché potremmo ritornare in un attimo nel tunnel. E siccome nel nostro paese, quando c'è la percezione che la crisi è dietro le spalle, cominciamo a dividere tesoretti, dobbiamo evitare di fare l'errore di rientrare nel tunnel appena usciti. Una forza come il Movimento 5 Stelle che si candida a governare il paese deve parlare con tutti. Sono contento dell'accoglienza, dell'interesse e dei numeri di telefono scambiati con chi era qua. Ho dato a tutti appuntamento all'anno prossimo con la Lega al governo e i primi risultati della Lega al governo. Sergio Ramos, il cross di Sergio Ramos per Mora. E sono tre. Arriva il fischio dell'arbitro Kuipers che interrompe una vera sofferenza. Be happy. Allora, siamo l'Italia che si riaccende o siamo l'Italia non competitiva in Europa, quella che la nazionale umiliata addirittura dagli spagnoli? Questa è un po' la grande domanda di oggi che pongo anche a voi, ma a Francesco Merlo chiedo di due voci che abbiamo sentito. Erano i due sotto esame, erano Di Maio e Salvini, che sono simbolicamente andati a Cernobbio un po' per superare una sorta di test di ammissione alla prova di governo. Che impressione ha avuto Francesco Merlo? Ma i due leader antisistema che si sono esibiti a Cernobbio sono contemporaneamente simpatici e un po' patetici, perché l'idea di far finta di essere le forze di governo, l'idea di non essere più antisistema, l'idea di non volere più da un lato portare il baffo al governo e quindi mandare a baffa il paese come vogliono fare i grillini, e dall'altro quello di non essere più i rodomonte spaccamontagne come fa Salvini eccetera, solo perché lì c'erano degli imprenditori, è ovviamente un'idea che non passa, no? Rimangono le due grandi alternative, ripeto, al sistema, e sono i leader del populismo, ed è vecchia in Italia la speranza di poter indossare ogni tanto un doppio petto e poi di nascondere in realtà l'irruenza e la violenza. Però l'Italia è anche il luogo degli ossimori, delle contraddizioni, dei populisti di governo, dei partiti di lotta e di proposta, e quindi in qualche modo questo sdoganamento ha fatto sì che sembra che ci siano stati soprattutto loro, no? C'era più curiosità per gli antisistema che entrano nel salotto del sistema che per gli uomini del governo, o no? La curiosità sicuramente sicuramente è questa, però la verità di Cernobbio è la ripresa, cioè da Cernobbio viene fuori l'ottimismo della ripresa, ci sono dei dati che sono finalmente positivi e si tratta di vedere se sono strutturali oppure se sono, la discussione molto ampia su questo, se siamo sicuramente, ci siamo legati a un carro mondiale, quindi a una ripresa mondiale, è un buon momento per il paese ed è un momento che viene affrontato con un governo sostanzialmente affidabile, che è il governo Gentiloni, con tutte le sue contraddizioni, il Presidente del Consiglio si porta dietro un'area di stabilità, questo è Cernobbio. E poi i due attori giovani che sono Salvini e Di Maio ripropongono quel vecchio schema che dicevi tu, che è quello dell'ossimorico degli spaccamontagne che vengono lì a indossare un vestito di tranquillità. Allora, sulla ripresa, sui temi che hai detto, sui dati dell'occupazione, su questo PIL che pian piano risorge, su questo parleremo più tardi con Oscar Giannino nell'appuntamento, diciamo, storico, con le sue rasoiate, la sua analisi. A te voglio far sentire anche il blob politico, quante cose si muovono in questo weekend di passioni. Mozzarella, pomodoro, basilico. La caprese è uno dei piatti più genuini, più straordinari della cucina mediterranea. È pure mezza magra e io ne so qualcosa, ti devo perdere un po' di. Poi ricordatevi che quando fate questo gesto semplice, e cucinate questo piatto estivo, state mangiando Italia. Signora, signora, voi avete rubato, lo dice a sua sorella, si mette a sedere per quel piacere, perché voi avete rubato cortesemente. Spacito, famoselo in una playa in Puerto Rico. Non credo che c'è l'emissario di Renzi, non credo che c'è il proconsole di Renzi, e se ci fossero io contesterei. Pasito a pasito, suavecito. Ma ormai il pane è un po' come una margherita, c'è da vedere quanti petali gli restano attaccati, sì, perché ormai c'è rimasto il gambo, le radici ormai se ne sono andate da tempo, anzi è un po' appassito, però molto appassito. Allora, sotto la colonna sonora di una delle canzoni più sentite dell'estate, proprio per uscire dal clima vacanziero, abbiamo messo una perla, la Meloni che dà la ricetta della caprese, e beh, è bella. E poi abbiamo sentito il momento clou della contestazione di questa donna, questa signora anziana che si è alzata durante una delle presentazioni del libro di Renzi e si è messa a inveire, ovviamente, e su questo poi vorrei il tuo parere, perché è un po' il ritorno mediatico di Renzi. E poi ovviamente abbiamo il grande, proprio il grande tormentone, la telenovela della Sicilia. Ci sono questi, sceglieranno i candidati dopo la data del voto, temo. Allora volevo sentire, visto che sei anche un buon conoscitore di questa terra, spesso si è detto che la Sicilia è il modello della politica italiana, e che cosa succede, Francesco Merlo, in Sicilia? Perché a parte i 5 Stelle, sono già partiti da un anno praticamente, centrodestra ha appena scelto un candidato, Musumeci, ma il centrosinistra è in piena ebollizione. Crocetta, lo avete sentito, reclama le primarie, c'è un candidato che è stato già designato ma in qualche modo già azzoppato. Che cosa succede lì? Ma succede che la politica mostra il suo grande limite, che è quella della mancanza di una prospettiva di futuro, per cui la nostalgia diventa un progetto, quindi la destra si ricompone con il vecchissimo schema del Berlusconi e la Lega insieme, e la sinistra non riesce a trovare un candidato perché viene fuori da una sconfitta molto, molto forte, che è quella che la sconfitta di Crocetta, che era nato con una grandissima speranza, era addirittura riuscito a portare al governo un valore che era l'omosessualità come valore politico e come valore antimafia, un'idea molto bella che a lui era riuscita all'inizio, poi è diventato macchietta e purtroppo e purtroppo è naufragato. Quindi la sinistra nasce male, non trova un candidato, la destra si ricompatta con un progetto nostalgia e i 5 Stelle non hanno più quella forza innovativa, fantasiosa che fu rappresentata da Grillo che attraversava lo stretto a nuoto e quindi anche da questo punto di vista non è più riproponibile, quindi è una battaglia molto stanca dove è molto probabile che lo scontro avverrà e sarà decisivo fra la destra e i 5 Stelle, purtroppo. Lo dico purtroppo perché la mia ovviamente speranza purtroppo è sempre per te. Per me, certo. Allora, volevo chiederti invece un commento in più su questo show di Renzi. Ripetiamo, era una signora, Giovanna Mazzoni, una militante dell'associazione No Salvabanche, ma a me mi colpisce più una cosa, cioè si alza una signora anziana con una bandiera, chiaramente una contestatrice, e il tono di Renzi, se è un'opinione diversa dalla mia, sono quasi più contento, è un po' quello di prenderla in giro, cioè di usare la platea che lui domina, la sua platea, per dire: signora, la foto l'ha già fatta, adesso se ne vada. Ecco, mi chiedo, ma se si fosse alzata una vittima del terremoto che non ha ancora la casa, il tono sarebbe stato lo stesso? Ho l'impressione che in questa noncuranza Renzi riveli di soffrire molto l'argomento banche. Poi su questo vedremo i messaggi, perché sono sicuro che gli ascoltatori si appassioneranno, però è la mia opinione. Se lo difendi sono quasi più contento, così diamo due opinioni. A me pare che sia un Renzi risentito quello che dice ha rubato, lo dica a sua sorella, perché quindi è un Renzi che prende la palla al balzo e che risponde su un punto, cioè Renzi non ha rubato e questo non risulta che Renzi abbia rubato, quindi accusare Renzi di essere ladro è un modo anche di aiutarlo. Perché quando le accuse diventano così insostenibili è facile rispondere, per cui sembrava, a me personalmente sembrava come se si fossero messi d'accordo, insomma, come se la signora fosse una compare di Renzi, perché non ha fatto delle contestazioni. Come si vedono comare diversamente le cose. Allora, non ha fatto una contestazione nel merito, gli ha detto ladro. Ora, dire ladro è come quando tu dici cretino, ed è facile rispondere per uno che non è ladro. Sì, anche se non era un'accusa proprio personale, ci avete rubato i soldi, parlava del decreto, però è giustissima la tua obiezione. La cosa che più mi ha colpito in questo weekend è che improvvisamente siamo tornati in bianco e nero, improvvisamente siamo tornati agli anni 50, i missili, i dittatori, gli stati, le testate nucleari, tutto questo sembrava una cosa difficile da spiegare ai nostri figli, e poi guardi Stranamore, il dottor Stranamore di Kubrick, e sembra che stia parlando di noi ieri. Ma allora è possibile che posseggano una cosa simile? I mezzi necessari sono alla portata di qualsiasi potenza nucleare, per quanto piccola sia. Ci vuole solo la volontà di farne uso. E qui tutta l'essenza di questo ordigno. La deterrenza è l'arte di creare nell'animo dell'eventuale nemico il terrore di attaccare. Il terrore di attaccare, ovviamente si parla della Corea del Nord. Francesco Merlo, siamo di nuovo al dittatore pazzo? Il dittatore pazzo è una figura della storia che si ripete sempre uguale, in realtà non è mai pazzo ed è un folletto della storia, cioè qualcuno che offre alla storia il pretesto per mostrarsi, cioè si sposta la luce sull'Asia e scoppia una guerra fredda dove la guerra fredda non c'era stata prima, cioè è un nuovo teatro ed è il nuovo teatro della geopolitica, perché lì ci sono gli interessi della Cina e gli interessi degli Stati Uniti e l'Europa e anche la Russia giocano un ruolo molto secondario, quindi ma c'è anche l'Australia, c'è anche il Giappone che si riarma, c'è il Vietnam, cioè sono tutti paesi che hanno la tecnica nucleare e che in poco tempo possono diventare potenze nucleari ed è incredibile che il Giappone possa diventare una potenza nucleare. Ma se, sarebbe poi la fine proprio del codice Hiroshima, sarebbe la fine della Seconda Guerra Mondiale. Sì, la fine del Novecento, cioè, perché sono gli Stati Uniti che sono il paese che ha imposto al Giappone la Costituzione pacifista, sono lo stesso paese che adesso hanno bisogno dell'armamento del Giappone. E che comunque utilizzano questo come minaccia. E poi c'è la Cina. Bisogna ricordare che Trump comincia la sua politica estera con la nuova presidenza degli Stati Uniti proprio attaccando la Cina e con la sua enfasi retorica e con una retorica che ricorda quella italiana fascista, dice spezzeremo le reni alla Cina. Cioè, adesso invece attraverso Kim si capisce che senza un accordo con la Cina non c'è politica possibile di pace in Asia. Bene, grazie, abbiamo fatto veramente una fotografia in pochi minuti, ci fermiamo per l'estate in diretta, grazie a Francesco Merlo, torniamo subito dopo con il confronto, il faccia a faccia sul tema più caldo, quell'incredibile vicenda dello stupratore che sta facendo discutere tutta l'Italia. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Mattino. E allora di nuovo buongiorno, bentornati in questo spazio. Ogni giorno entreremo nella questione più controversa, perché spesso le idee devono essere due anche quando una non la si condivide, e in questo spazio sentiamo due opinioni diverse su un tema. E oggi non può essere che questo, ne parleremo nella rassegna stampa, ma insomma il tema, il grande dibattito che si è aperto dopo lo stupro di Riccione. Abbiamo due grandi opinionisti che presento, Andrea Purgatori, buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno. E Alessandro Sallusti, direttore del Giornale. Abbiamo buttato giù dal letto due giornalisti che la vedono in modo diverso, ma che sicuramente ci possono arricchire. Allora sentiamo un po' di voci di quello che è successo, il tema su cui oggi discutiamo. Gerlain Butungu, ventenne, originario del Congo, gli avevano respinto la richiesta di asilo politico, ma in tasca aveva una protezione umanitaria valida fino al 2018, quindi era regolarmente in Italia. Sarebbe lui il capo del branco di Rimini, l'ultimo dei quattro a mancare all'appello, l'unico non nato in Italia. Non c'avete un altro servizio sui negri cattivi? Non c'è un altro, c'è un altro servizio che dovete fare, la volevi un'altra volta. I neri in Italia sono i peggio. Mi sembra una meravigliosa trasmissione. No, ma guarda, non solo occupano le case, ma vanno con i furgoni contro i nostri ragazzi e ne uccidono a decina alla volta. Lo dico così, l'Africa per i prossimi 15 anni sarà lo specchio dell'Europa. Qualcuno pensa che sarà lo specchio soltanto dell'Italia, ma si sbaglia. Se l'Africa sta bene, l'Europa starà bene. Se l'Africa starà male, l'Europa starà male. E l'ultima voce l'avete riconosciuta subito, era fresca di giornata, era Marco Minniti, il ministro dell'Interno, col sussurrato che è già diventato uno slang di Crozza, si sbaglia, è un po' calabrese, un po' carismatico, un po' leaderistico, perché Minniti su questo tema ci sta mettendo la faccia. Ma voglio partire subito da Sallusti, perché io ho letto con attenzione il Giornale, ne parlerò anche nella rassegna stampa fra breve, ma come dire, i pezzi di Fazzo, gli editoriali del suo Giornale di oggi dicono in qualche modo, ecco, quello che stavamo dicendo da tempo è successo, uno di questi profughi che noi abbiamo accolto e coccolato è diventato un killer. È così? Cioè si può usare questo fatto di cronaca immediatamente politicamente per dire che stiamo sbagliando linea sull'immigrazione? Penso di sì, perché in questa storia ci sono tutti i nodi, gli snodi della vicenda più generale dell'immigrazione. C'è un profugo arrivato coi barconi che non aveva nessun diritto di essere un rifugiato, ma che noi in qualche modo abbiamo sanato dandogli un permesso provvisorio cosiddetto umanitario. ci sono dei ragazzi minorenni con precedenti penali che però continuano, hanno continuato imperterriti a fare quello che poi abbiamo visto. La storia di quella famiglia del padre, cioè di quello che è arrivato in Italia, è una storia anche quella che ha dei risvolti inquietanti sia dal punto di vista giudiziario che dal punto di vista della vicenda che gli ha permesso di rimanere in Italia nonostante per esempio un provvedimento di espulsione che era stato adottato e mai applicato. Cioè c'è in questa vicenda di cronaca nera, ci sono tutti i limiti della non gestione del fenomeno. Purgatori, la sinistra la vede in un modo totalmente opposto, cioè in qualche modo questa vicenda è come una delle tante vicende di violenza, ma non dimostra che c'è un errore, che noi siamo buonisti o che abbiamo accolto troppo, è così? No, io per cominciare voglio dire subito che questi quattro non li difendo, ma neanche neanche cercando di arrampicarmi sugli specchi. Hanno commesso un reato orribile, penso che debbano essere tutti puniti, come dice il ministro Orlando, sulla base della legge, sulla base del codice. Dopodiché, francamente, io credo che questa sia non tanto una lezione che ci deve fare un passo indietro rispetto a quello che noi abbiamo fino adesso fatto dal punto di vista umanitario, ma penso che sia certamente la spia di tutto quello che noi non siamo riusciti a gestire nel modo corretto fino adesso. Il punto però è che non possiamo far diventare questo caso il paradigma di ciò che significa il flusso migratorio. Io sono d'accordo con quello che ha detto Minniti, noi dobbiamo cercare di pensare che il problema non è tanto in mare, ma il problema soprattutto prima. Se l'Africa, ha detto Minniti, sarà male, anche l'Europa sarà male. Allora, tanto per cominciare, l'Europa si deve, ma questo lo ripetiamo, fare carico di quello che insomma è un problema che non riguarda soltanto l'Italia. L'ultimo dato che c'è è che su 50.000 persone che sono arrivate nel nostro paese e che devono essere ricollocate nei paesi europei sulla base degli accordi che sono stati fatti, soltanto 8.000 sono state ricollocate. Quindi noi ne teniamo 42.000 perché l'Europa non fa quello che deve fare. Il problema è politico, il problema è quello non tanto di trovare delle mediazioni con delle pacche sulle spalle quando si vanno a fare delle riunioni con i nostri amici, partner e confinanti, ma di sbattere i pugni sul tavolo e dire: signori, questo è un problema che riguarda tutti. Forse su questo siete d'accordo con Sallusti, però credo che il direttore del giornale pensi che questo governo non sia il più attrezzato per farlo. No, questo governo paradossalmente, essendo un governo non politico, un governo a tempo, un governo che non ha bisogno di un consenso elettorale, è un governo che in teoria può fare tutto, in effetti quel poco che è stato fatto l'ha fatto questo governo. Quindi il problema è che cose così come dire importanti, per esempio come lo Ius Soli, che riguarda non possono essere fatti da un governo a termine, tra l'altro da un Parlamento a termine, tra l'altro un Parlamento che non rappresenta più la volontà popolare, perché per più di metà è fatto di transfughi, quindi di gente che ha preso il voto da una parte e l'ha portato da un'altra. Su questi argomenti che determinano addirittura il futuro dell'assetto del paese, credo che ci vuole un Parlamento nel pieno della sua rappresentatività e quindi legittimità. Perché torniamo un attimo a questa vicenda: questi tre ragazzi tra sei mesi dobbiamo decidere se avrebbero potuto chiedere la cittadinanza. Sì. E allora chiedo a Purgatori: lo Ius Soli passerà lo stesso malgrado questa vicenda, o non passerà comunque perché era già con un piede nella fossa? Rapidissimo, e scusandomi per i tempi. Guarda, molto rapidamente, a me dispiace che non passi. Io sono sono, ci credo, non, nel senso che credo che comunque diciamo chi è nato in questo paese credo che debba avere gli stessi diritti che hanno gli altri cittadini italiani. Ripeto, io tra l'altro incidentalmente ti sto parlando da Rimini, questa vicenda l'ho seguita in qualche modo da vicino per motivi diciamo così di coincidenze personali e posso dirti che insomma questa per esempio è una città dove l'integrazione ha funzionato, ma è chiaro che l'integrazione... E quindi però pensi che non passerà. Io vi ringrazio perché i tempi sono stati molto compressi, grazie anche perché è stato un confronto civilissimo. Ci fermiamo un secondo e torniamo dopo il GR.